versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 14 di gennaio siamo in diretta agli studi di Milano della radio 16:34 primi 5 secondi. Lo sapete tutti, oggi è la giornata in cui sono state consegnate le dimissioni del Capo dello Stato, però la mia scelta è quella, mettendo in conto che di qui fino a che alla fine di gennaio ci sarà il primo scrutinio, verremo letteralmente sommersi da una tonnellata di ipotesi sul successore, bilanci, Grazie Napolitano di qua, di là, eccetera eccetera. Quindi insomma lascio, come è giusto, a tanti altri toccare questo tema che ci riempirà gli occhi e ci distrarrà anche dai problemi dell'Italia, però la scelta del Capo dello Stato è una cosa fondamentale, perché come sapete nel nostro ordinamento costituzionale è un giocatore, non è un arbitro, perché i poteri che ha, come si è visto, sono molto forti sulla nomina di governi, decidere di sciogliere o non sciogliere, mettere governi non scelti in un voto popolare. Ma invece torno su un tema, perché il silenzio su cui è passato improvvisamente, per via della strage di Parigi e così via, dopo l'enorme botta di calore nel dibattito pubblico che era stata suscitata la notte di Capodanno e nei giorni successivi dall'incredibile numero di assenze dei vigili urbani a Roma per il servizio notturno rispetto ai 650.000 romani e turisti che sarebbero stati in strada, e vi ricordate che esplose la polemica perché il capo del municipale disse qua non si sono presentando vari certificati, chi sanitari, chi dicendo che andava a donare sangue, ben 835 vigili su 1000, e per un paio di giorni c'è stato un caloroso, arroventato anzi, dibattito sull'assenteismo pubblico. Allora, che cosa è capitato? Che poi, come sempre succede in Italia, esplode un problema, per due giorni tutti ne parlano, poi si mette naturalmente tutto nel cassetto. Pochissimi giorni fa, venerdì scorso, il Centro Studi di Confindustria ha fatto una elaborazione sul tema dell'assenteismo pubblico paragonato all'assenteismo privato sulla base di dati comparabili, e io per questo vi invito a telefonare per dire la vostra sull'assenteismo pubblico. Secondo voi è come nel privato? È più alto che nel privato? Qual è la vostra esperienza diretta? Cosa ne pensate? Cosa bisognerebbe fare? 800 24 00 24, naturalmente, per intervenire in diretta, 349 238 6666 per mandare sms. Ora, prima di presentarvi l'ospite, perché ho deciso per correttezza e per equilibrare i dati che adesso vi cito sintetizzando l'analisi di quel del Centro Studi di Confindustria, ho invitato un ospite che serve a controbattere questa tesi, perché altrimenti sarebbe stato unilaterale. Però prima vediamo quali sono in sintesi i dati di Confindustria. Allora, qui ci sono due conclusioni in base ai dati che poi vi citerò e vi spiegherò come sono elaborati, e due conclusioni che sono molto pesanti, perché secondo questa elaborazione l'assenteismo nel pubblico su una base comparata rispetto ai dati certificati delle assenze nel settore privato delle imprese associate a Confindustria, ecco, l'assenteismo pubblico è enormemente più elevato nel privato. Quando dico enormemente, significa che è più elevato del 46,3% rispetto a aziende private, quasi del 50%. Primo dato, vediamo di capire come è stato elaborato. Secondo dato, questa percentuale così tanto più elevata, quasi doppio, comunque del 50% superiore di assenteismo nel pubblico rispetto al privato, che costo comporta per i contribuenti? Un esborso, poiché sono assenze retribuite, come ovvio, di 3,7 miliardi di euro l'anno, che insomma non è proprio poco. Allora, in base a che cosa dice questo Centro Studi Confindustria? Naturalmente il Centro Studi Confindustria ha tutti i dati del 2013 di tutte le assenze nel settore privato delle aziende iscritte per le diverse ragioni. Sapete che si può essere assenti per malattia col certificato, ci sono le assenze retribuite per permesso sindacale o attività sindacale, quelle per la legge 104 per sostenere i parenti che hanno patologie gravi e così via. E quindi primo dato è quello delle assenze nel settore privato, ecco. Secondo dato, a quel punto si parte dalle assenze nel settore pubblico, che non c'è più dal 2011 un rapporto annuale fatto dal Ministero della Funzione Pubblica al Parlamento, c'è stato solo per 2 anni dopo la riforma di Brunetta, poi dal 2011 il Ministero della Funzione Pubblica non fa il rapporto annuale al Parlamento. Chi vuole saperne di più deve rovistare in diverse banche dati pubbliche. Quella più, diciamo così, sintetica e precisa è il cosiddetto conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato sul pubblico impiego, e l'ultima edizione è quella con i dati del 2013. Allora, anche nel conto generale del pubblico impiego, che trovate se andate sul portale del MEF, Ragioneria Generale dello Stato, inserite conto generale, vi uscirà fuori 2014, quindi sui dati del 2013, anche lì trovate indicate per il settore pubblico senza municipalizzate, ma trovate per il settore pubblico centrale, regioni, comuni e province, tutte le assenze per diverse ragioni nel settore pubblico. Il limite di questo conto generale della Ragioneria dello Stato è che non fa un paragone con il privato, come invece avveniva nelle relazioni annuali sull'assenteismo pubblico al Parlamento, che, ripeto, il Ministero della Funzione Pubblica negli ultimi 2 governi non ha più inoltrato al Parlamento. Allora, sulla base dei dati indicati dal conto generale della Ragioneria, Confindustria, e qui naturalmente entriamo in un terreno scivoloso, sceglie ed elabora un campione paragonabile di dipendenti privati sulla base dei propri numeri delle aziende iscritte rispetto a dipendenti pubblici, e a quel punto giunge alla conclusione che le assenze a vario titolo retribuite e consentite nel pubblico impiego, a parità quindi di profilo di addetti, sono quasi del 50% in più. E in altre parole ci sono 9 giorni in più di assenze retribuite nel settore pubblico rispetto al privato ogni anno in questo campione, così dice la Ragioneria Generale. E a questo punto il centro studi di Confindustria fa anche la stima del fatto che se i livelli di assenteismo nel pubblico diminuissero del 50% come quelli del privato, a quel punto il minor fabbisogno di personale, fatto sulla stima delle uscite pubbliche per costo del lavoro 2013, comporterebbe un risparmio di 3,7 miliardi. Allora, ho tentato di spiegarvi senza sposare unilateralmente, perché ovviamente i criteri statistici nel nostro paese non vengono mai condivisi, però è una stima bella pesante. E allora abbiamo chiesto oggi di confrontarsi con questa stima con noi il segretario generale della Funzione Pubblica della CISL, Gianni Favrin. Buon pomeriggio, segretario. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, mi dia atto, come ho visto, non ho sposato un punto di vista. Dico che ci sono dei dati elaborati, il pubblico è indietro, e secondo me è anche nell'interesse del sindacato chiedere che il pubblico invece elabori dei dati comparati, perché altrimenti ciascuno può dire poi quello che vuole, ma siccome il pubblico il dato comparato non lo elabora, bisogna andare avanti per stime. Qual è la vostra opinione di fronte a questa stima del 50% di assenteismo in più nel pubblico e dei costi per miliardi per i contribuenti? L'idea che mi viene è che faccio fatica a confrontarla con la ricerca del 3 gennaio della CGA di Mestre, che invece aveva portato un dato completamente diverso, parlava di 17 giorni per il pubblico e di 19 privato, che mi avevano sorpreso. Però devo dire che l'avevano sorpresa positivamente o negativamente? No, mi avevano sorpreso positivamente, anche se ho dei dubbi per le ragioni che diceva lei. Credo che sia giunto il momento in questo paese di avere un'unica banca dati vera, esatto, confrontabile, esatto, fatta dallo stesso istituto, che pubblica non solo i ricercatori ma i cittadini, per capire se nel proprio ospedale, bravo, comune, ministero, la media di assenteismo è più alta o più bassa. Basterebbe questa vera trasparenza, certo, per chiedere di rendere conto al dirigente, che come nel privato anche nel pubblico ha il compito di la produttività e la presenza e la qualità, di indagare come mai il benessere organizzativo oppure la casualità della malattia o altre cose, perché io sono perfettamente d'accordo che il cittadino e il bravo dipendente pubblico non debba lavorare di più perché c'è qualcuno che non controlla e non compara e nasconde i dati. Quindi direi che ben vengano queste analisi, ripeto, la CGA dice un'altra cosa, ma non è particolarmente importante. Sul dato del risparmio, nulla da obiettare, se non, come dice lei, dal punto di vista statistico, non per obiettare il messaggio che vuole dare Confindustria. Qui si fa un calcolo, qui si dice che questa 46,3% in più di assenze, visti i 156 miliardi e le 252 giornate, danno i 3,7. Mi permetto di dire, ma non sono né uno statistico né un matematico, che è un po' azzardato questa idea di risparmio dei 3,7 miliardi, perché in questi 156 miliardi ci stanno dirigenti e esercito. Allora voglio solo dire che 2 milioni e mezzo di dipendenti pubblici costano 70 miliardi lo Stato, tutto il resto è forze armate, e 20 miliardi costano i dirigenti, quindi insomma è la media sbagliata. Ma è un dettaglio, quello che io ritengo è che è scandaloso che non ci sia un dovere, una omogeneità di controllo da parte dei dirigenti di ogni posto di lavoro. Ecco perché ben vengano regole comuni per il pubblico e per il privato, danno conto delle tasse che pagano i cittadini e mettono le condizioni chi dirige di capire se dirigere è arrivare a essere dirigente oppure è l'arte di organizzare e in tempi di vacche magre mettere in moto meccanismi che con meno si possa fare di più, più veloce, di qualità, più produttività, perché è questo che mi interessa in particolare. Anche a me, devo dire la verità, il problema è la produttività del settore pubblico e la trasparenza. Per questo io sposo la sua tesi, cioè secondo me il giorno in cui noi giornalisti, i contribuenti, cittadini qualunque e voi, insomma la CIS, funzione pubblica, ha un certo peso sul totale della rappresentanza del settore pubblico, se insieme facessimo delle battaglie perché ci fossero elaborazioni statistiche ben fatte, pubbliche, comparate sulla base di un criterio condiviso pubblico-privato, nel quale mettere in condizioni voi, esercitando il vostro legittimo e pieno diritto di rappresentanza sindacale, anche in vista dei contratti che adesso sono tutti fermi da anni, però un giorno bisognerà pur rinnovarli pensando alla produttività, noi come giornalisti, ma soprattutto tutti i cittadini in grado di a quel punto chiedere ragione del chi è responsabile per eventuali sacche, aree più estese, aree meno estese di assenteismo e bassa produttività. Perché il problema, cari ascoltatori, non credete a chi vi dice che nel pubblico non si può licenziare, sono tutte frottole. Nel pubblico, oltretutto con le nuove regole disciplinari entrate in vigore nel 2009, si può licenziare per più di 2 giorni non documentati di assenza nel biennio, capite? Cioè ci sono tutte le regole. Il problema è: uno, i dirigenti che, come ha detto adesso Favarin, dovrebbero sovrintendere al controllo di questa cosa, non con la frusta in mano, ma semplicemente darci i dati, svolgere la propria funzione di indirizzo, di controllo sulla produttività, oltre che sulla presenza al lavoro e sulla verifica dei titoli presentati quando uno non va a lavorare. I dirigenti, loro, noi dobbiamo sapere chi risponde di queste cose. A oggi noi non abbiamo né i numeri, né siamo in grado di chiedere ai dirigenti e né tantomeno a quel punto di chiedere che si applichino regole che ci sono già, e facciamo enormi dibattiti pubblici sui giornali, e io devo dire, quello è il mio mestiere, ma se devo vedere ogni volta qualcuno che dice riscriviamo, mancano le regole, ma le regole ci sono tutte, il problema è metterci in condizione di applicarle, e io credo che in questo molti dipendenti pubblici e anche il sindacato, non so se tutti i sindacati, ma mi auguro di sì, ma noi che siamo a tentare di capire e spiegarvi che numeri dare, e soprattutto tutti i cittadini che sono i destinatari dei servizi della cui tasca escono questi soldi, nella realtà abbiamo tutti un unico interesse convergente. Poi io non credo che ci sia, tranne che chi è in malafede e si assenta in malafede perché timbra storto il cartellino o non lo timbra o fa timbrare a qualcun altro, ma noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando del fatto che esplodono le polemiche e ciascuno è libero di dire quello che gli pare. Secondo me questo è una malattia del nostro paese, lo dico io che sono per il privato, per la concorrenza, per basse tasse rispetto a buoni servizi, però non funziona un paese in cui esplode il problema una notte a Roma e poi l'indomani tutti restano convinti delle proprie idee e poi non succede regolarmente nulla, perché è un paese malato. Strade, torniamo tra 60 secondi con Favarin, del segretario generale della funzione pubblica CISL. La la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a 16.48 per 59 secondi con il segretario generale della funzione pubblica della CISL Gianni Faverin. Siamo partiti come spunto da questo studio di Confindustria, il centro studio di Confindustria, che dice nel pubblico, su un campione statistico elaborato da loro, perché ripeto non c'è un paragone con dati condivisi pubblico-privato nel sistema di contabilità nazionale, però il centro studio di Confindustria dice c'è un assenteismo pubblico superiore di quasi il 50% nel privato e costa 3,7 miliardi. Sentiamo un po' di vostre opinioni e poi le facciamo commentare al segretario della CISL. Cominciamo con Guido che chiama da Torino. Prego Guido. Buonasera. Buonasera. Io sono un coordinatore della logistica di un ASL. Sì. 40 persone. Sì. Per la mia esperienza l'assenteismo non è assolutamente un problema. Cioè la gente viene, è infinitesimale. Il problema è la produttività. Io ho a che fare anche con personale esterno, cosiddette cooperative, anche se in forme diverse. Comunque, diciamo che per fare una produzione che sia comprensibile, il lavoro di tre cooperativa lo fanno in cinque pubblici. Questo più o meno era la. E lei, perdone Guido, come coordinatore, quindi con una funzione di indirizzo o di dirigenza, non avrebbe gli strumenti per incidere sulla produttività? Mi sento un po' tarpato sull'alto, cioè non è coperto in alto. Mi sembra che sia, mentre su altre cose abbiamo fatto anche dei licenziamenti con ricorsi rigettati, sì, cose tipo furti, roba del, certo, genere. Su quello sembra più evanescente la possibilità, non so come dire. No, capisco la delicatezza di doverlo dire al telefono, e quindi dice in alto non è una cosa, se io mi muovessi in alto non piacerebbe troppo. Cioè, poi chiediamo al segretario della CISL Funzione Pubblica. Lino da Ascoli Piceno, prego Lino. Lino, mi sente? Sì, pronto. Eccoci, dica la sua. Allora, io volevo dire qualcosa a proposito dell'impiego stradale. Sì. Cioè, io sono da sempre convinto che praticamente gli impiegati pubblici, un attimo solo che mi fermo, stavo camminando. Prenda fiato, sì. Sì. Che non è che non vogliono lavorare, o comunque è che sono assenteisti, cioè in realtà non hanno niente da fare. Per un semplice motivo, che hanno molto poco da fare, perché sono in soprannumero. Per questo motivo non lavorano, cioè per questo motivo non vanno a lavorare, perché andare a lavorare non andarsi è la stessa cosa, cioè per cui quando vanno lì si annoiano pure. No, allora Lino, su questo, anche qui, attenzione ai numeri, da quando abbiamo introdotto, in questi anni di crisi noi abbiamo introdotto negli ultimi 5 anni e mezzo ormai due cose nel settore pubblico, i governi, e le condividono qualunque sia poi il colore, il tipo di governo che si succede, compreso il governo Renzi: lo stop agli aumenti automatici salariali dei dipendenti pubblici e lo stop ai rinnovi contrattuali da una parte, e dall'altro lo stop al turnover, quindi è limitatissima la copertura di quello che vanno in pensione con nuove assunzioni. Per questo solo fatto, anzi per la somma di questi due fatti, noi abbiamo da una parte stabilizzato in termini reali e non nominali il totale del costo annuale dei dipendenti pubblici a 154-156 miliardi, mentre il resto della spesa corrente continuava ad andare su, e dall'altra abbiamo 250 mila dipendenti pubblici in meno, a furia di non sostituirli. Naturalmente però ogni anno cioè l'età media aumenta quasi di un anno, e quindi questo non è poi una bella cosa. Allora, questo per ricordare i numeri. Lei dice sono troppi, naturalmente molti dicono che a parità di popolazione non siamo fuori media. Il problema è che cosa devono fare, ecco, il problema è che secondo me bisognerebbe spostarli dove ci sono, quindi c'è un problema di mobilità, e anche qui non diciamo che non si può fare, la mobilità è prevista, ulteriormente rafforzata negli interventi sulla PA dell'attuale governo, ma la mobilità è prevista nell'ordinamento pubblico, come è previsto il licenziamento. La questione è metterli in moto questi meccanismi. Fabio da Milano, come la pensa Fabio? Sì, buonasera. Io volevo, premetto, sono uno statale, sì. Volevo premettere che secondo me prima di tutto l'impianto pubblico statale rimane in piedi soltanto grazie alla buona volontà di pochi o un numero minore di dipendenti che lavorano per spirito etico. E che sono premiati o non premiati? Che non sono premiati. Non ci sono le regole che premiano chi lavora onestamente, diciamo tra virgolette, chi fa il suo dovere. Le faccio una domanda provocatoria, sì, perché poi appunto abbiamo il sindacalista della CISL. Non dovrebbe essere anche il sindacato a battersi perché i migliori su base di obiettivi noti ex ante raggiunti siano premiati? Sì, sicuramente, infatti se posso dire, secondo me è proprio uno dei difetti del sindacato che non non si batte abbastanza per questo. Di meno. Allora, mi scusi, posso? Questo discorso va a giustificare anche eventualmente eventuali comportamenti errati della polizia locale di Roma. Mi spiego. Se un poliziotto, uno della polizia locale che lavora la domenica, la notte, a Capodanno, guadagna poco di più di chi lavora la mattina di mercoledì in ufficio, è normale che tende a quel punto a sottrarsi, a ammalarsi. Capito. Lì il problema è che c'è anche uno scontro in realtà tra il corpo dei vigili, il comandante, la rotazione per motivi anticorruzione e così via. Lì ci sono, per così dire, diverse vicende che si intrecciano, quindi c'è stata dell'organizzazione dietro quella notte, insomma non è che tutti spontaneamente hanno deliberato di farlo. Allora, questo blocco di considerazioni, giriamo a Gianni Faverin, Funzione Pubblica CISL, per sapere se condivide o meno che vi battete, voci da di dentro, del settore pubblico, dicono il sindacato dovrebbe battersi di più perché siano premiati i migliori. Sì, sono d'accordo, partendo dalla prima considerazione del collega coordinatore, perché c'è molta attenzione a inserire attività esterne, cooperative o terzo settore nel pubblico, dovrebbero servire per confrontare modelli organizzativi e flessibilità e non per spendere meno, e lo stimolo interessante sarebbe imparare in maniera emulativa da modelli organizzativi che rendano più flessibile anche il pubblico, quindi in parte ha ragione lui. Se però chi è il manager superiore ha timore di inserire dati per confrontare quello che fa l'infermiere Faverin con l'infermiere della cooperativa per paura di avere turbolenze sindacali, non fa un bene né a Faverin né all'inserimento del terzo settore come attività supplente. Allora Faverin, domanda sui dirigenti, poi va avanti, sì. Domanda sui dirigenti, ma in un mondo nel quale i dirigenti pubblici il premio di produttività se lo spalmano tutti uguale, perché questa è la realtà nella pubblica amministrazione, sì, tranne rarissime eccezioni, contro questo voi, in nome della tutela e della rappresentanza di chi sta sotto il dirigente, non dovreste insorgere e protestare dicendo no, noi vogliamo che ai dirigenti sia dato il premio a chi lo merita davvero, non a tutti in parti uguali? Ho provato a scriverlo in tutti anche i contratti, perché noi firmiamo contratti anche per i dirigenti. C'è un piccolo particolare: chi dà il premio ai dirigenti? Chi lo decide? La politica. Che non vuole problemi. Bravo. Quindi preferisce il 9 politico a tutti piuttosto che la fatica di entrare nel merito e dire perché il dipartimento del signor Arga. Bravo. Faverina, io qua la volevo portare. Gli ascoltatori, guardate che il problema non è, lo dico io che sono per il privato e non per il pubblico, qui il problema non è il dipendente pubblico in generale. I dirigenti che vengono premiati in maniera uguale dai politici che non vogliono rotture di scatole e poi vi dicono che è colpa dei dipendenti, ma non è così nella media generale. Comunque continuate su Radio 24.